uscita con me e tu non lo sai ma perché mi guardi così con gli occhiali in su per me. Ricordo più bello non c'è, eppure da quando tu sei qui non so se pensare a lei o a te. Ma tu hai preso il mio cuore mille volte in più. Io mi vergogno di giocar così, ma in fondo che importa quel che dice la gente. Quando tu mi sorridi non sei più una bambina. Oh Claire, Claire, Claire, momento d'amore per me che io sto vivendo con te. Insegnami il modo per essere bambino, perché se penso all'età che c'è fra noi piango di rabbia e non so perché. Tutte le volte che ti lascio mi sembra di morire. Ti prego non guardarmi così, oh Claire. Adesso è tardi per te, andiamo a dormire, è quello il tuo letto e non mi dispiace, è quasi mattina ormai. Hai preso il mio cuore, non lo lasci più, senti il respiro, quasi non l'ho più. Abbiamo giocato, ma domani con calma sarà tutto passato, sarà meglio dormire, Claire.